molto bella l'immagine della processione che si snoda nelle vie e di lato ci sono i disegni che la gente fa sbagliare. Sì, sì, quella è bella, proprio la processione in sé, che è una cosa veramente suggestiva. Suggestiva, sì. Che dura, parte dal giovedì di Pasqua, dal giovedì santo, a mezzanotte, e iniziano a camminare scalzi. Mascherati, ma una lentezza che voi non immaginate. Cioè fanno un metro, ci mettono un quarto d'ora. E quindi camminano fino a quando? Dal giovedì? Dal giovedì a mezzanotte fino al venerdì alle 15. Sì, a Pasqua. Sì, sì, l'Addolorata. Sì, sono delle confraternite laicali che però sono devoti a questo rito che è importato dalla Spagna ed è praticato. Ed è uno dei momenti in cui la città vecchia viene ripopolata e quindi è anche, diciamo, uno spunto, no, del fatto che sì, magari è abbandonato tutto l'anno, però no, alle processioni bisogna andarsi, quindi tutto... È sempre stata fatta lì la processione? E questa qua del giovedì sì, poi ce n'è un'altra che si svolge il venerdì ed era sempre nella città vecchia e adesso è spostata nella città nuova e che è un po', diciamo, il contraltare del discorso sulla città vecchia, perché la città vecchia ha vissuto quasi come se avesse vissuto una diaspora. Diaspora culturale dell'abbandono della città vecchia verso la città, diciamo, del progresso, e quindi anche la stessa processione è spostata nella città nuova. E per esempio, faccio un esempio, c'è anche una cattedrale e c'è la cattedrale e anche una concattedrale nella città nuova, che è stata è stata disegnata da un architetto, Gio Ponti, una delle ultime di Gio Ponti, e tutto questo all'ombra, appunto, di, come dicevamo prima, delle ciminiere, che erano questo modo con cui lo Stato pensava di sviluppare il Mezzogiorno, con una lungimiranza, insomma, abbastanza discutibile, perché ha creato, diciamo, secondo me, soltanto una sorta di spacco generazionale, cioè che i nostri genitori hanno trovato magari vantaggi perché si sono riusciti a fare una pensione. Poi, insomma, adesso è diventato, infatti il decreto Taranto è uno dei primi decreti che il governo Renzi ha fatto per il nuovo anno, ma non servirà a niente. E sì, io faccio la guida turistica, però appunto poi succede che vengo scambiato per un sindaco o per un politico che fa comizi, però non è che puoi parlare e dire ah, è bello il sud, sì, magari è bello perché ci vai a mare in estate, ci sono tanti eventi, anche il discorso delle tradizioni religiose popolari attirano persone, attira gente, però poi c'è gente che magari, per esempio, qualcuno conoscerà sicuramente altra gente di Taranto che vive a Milano da un bel po', e gente che se n'è dovuta andare perché appunto non aveva scelta, diciamo, viveva questa sorta di condizione che io la chiamo condizione mafiosa, non perché è legata alla organizzazione mafiosa, ma è proprio la possibilità di non avere altra scelta se non quella di scappartene, perché non c'è possibilità di costruire nulla. Quindi questa, io adesso faccio un po' il portavoce di questo discorso, però fortunatamente ultimamente c'è un po' di gente che cerca di restare e magari ha un po' dovuto a diversi casi, però in un certo senso si dà da fare per magari restare ad abitare e non viversi i cambiamenti, in questo caso urbanistici o comunque cambiamenti della città, senza il loro coinvolgimento. C'è un po' di gente che si sta insomma, interessando e si sta adoperando per comprendere. Certo, sulla questione della città vecchia c'è in ballo uno dei fenomeni più comuni, che è quello della gentrificazione e quindi dello spopolamento degli originari abitanti, portandoci magari gente che, non so, produca economia, no? Questo discorso della smart economy, smart city o green economy se ne dice tantissimo. Come immagino pure, faccio un esempio, ci saranno un sacco di aziende che verranno all'Expo dalla Puglia a dire mangiatevi le mozzarelle o i prodotti pugliesi, però magari non vi verranno mai a raccontare che il centro storico sta crollando e che le persone che ci stanno sono in via d'estinzione, non ve lo, cioè non è che è proprio così, però insomma non è neanche giusto non parlarne, e quindi di conseguenza questa è una buona opportunità per noi, insomma, per me. Per però comunque io penso che voi la doveste vivere proprio come risorsa, questo abbandono totale. Che poi non è un abbandono. No, è una presenza ingombrante, al contrario, in realtà. Cioè è un abbandono, però allo stesso tempo ci sono persone che vivono. Sì, c'è un'inconsapevole resistenza, non è che è proprio una resistenza attiva, un'autodeterminazione. No, ma io dico abbandono proprio da parte dello Stato, no? Che ha abbandonato questo posto. Da un lato è iperpresente perché ti porta le acciaierie, no? Perché pensa di. Cioè, pensa, lo fanno ovviamente solo per profitto, però. Da questo lato qua è iperpresente, però dall'altro ti ha abbandonato questo posto. Ma questo posto è così, è vuoto. Per voi è un'occasione di riempirlo come cazzo volete voi. Sì, sì, sì. No, vabbè, ogni vuoto è uno spazio da riempire sicuramente. Perché. Però poi. Cioè, dovreste proprio approfittarne di questa cosa. Perché no, è un momento. E mi stavo concentrando. Raro, è difficile trovare degli spazi di agibilità così. Ma è un vuoto interessante, cioè un vuoto che in realtà. C'era una presenza vigile e quindi sono interessati al momento di massima. Vabbè, diciamo decadimento per appunto fare questo. Eh sì, farne un grande affare. Questo sì. Avviene se tu abbandoni il posto, però se tu invece inizi, sanno i palazzi che se ne stanno cadendo, se qualcuno si organizza, no? Certo, c'è il discorso dell'autocostruzione o dell'autorestauro, autorecupero, però non sono processi immediati. Cioè sono. Ci abitano ancora una parte dei residenti storici, che sono quelli, i lavoratori del mare, quelli che vanno a pesca proprio la notte. E che si sono passati le case di generazione in generazione. Sì, alcune sono occupate proprio, perché ormai sono spazi abbandonati, quindi. Poi c'è una parte che hanno iniziato a ripulire, diciamo, piazzandoci l'università. Quindi a partire dall'università poi. Cioè, ovviamente attorno all'università iniziano a ruotare il baretto, così la trattoria di un certo tipo, e così si può allargare, può diventare tutto quella cosa là un po' vetrina. Però dall'altro lato c'è bisogno pure di città vive, dove la gente, c'è il pescatore che va a lavorare, c'è il falegname che fa la sua cosa, cose normali, diciamo.